Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Finita la sigaretta, facciamo per rientrare e ci dirigemmo verso l'entrata di Dolce e Salato. Quando sentimmo nell'ordine una lunga frenata di un'auto, un urlo di donna, un rumore sordo e vuoto e il guaito di un cane. Era successo. Io mi chiamo Pierpaolo Fanese, ho 34 anni, sono di Castel di Lama, un paese in provincia di Ascoli Piceno, ma lavoro al comune di Grottammare, quindi mi divido un po' tra queste due città. Oggi 7 di giugno 2012 è una giornata molto particolare, è una puntata particolare. Il primo motivo è che per la prima volta di là nella regia c'è mia mamma, quindi tutta l'ansia da prestazione che sentirete, tutti gli errori saranno dovuti al fatto che in qualche modo cerco di riferire tutta la sua presenza di là. È qui perché questa sera la accompagno al concerto di Bruce Springsteen, di cui domani vi farò un resoconto, perché domani sarà una puntata dedicata anche grazie a un racconto di, e vi dico anche subito chi, un ascoltatore che si chiama, ce la posso fare, ce l'ho in ultima pagina della scaletta, state lì, Davide che nell'81 andò a un concerto di Springsteen e domani si parla di quello, e questa è una cosa. Il secondo motivo per cui è una puntata particolare questa è che si è creata una grande discussione in redazione quando è arrivato il racconto di Pierpaolo. E io vi chiedo all'ascolto di sospendere il giudizio e di cercare di rispondere a questa domanda. È possibile ridere di tutto? Ve lo chiedo perché nella fattispecie il racconto di Pierpaolo è esilarante per qualche verso, è triste e malinconico per altri, però di fatto sollevo quella domanda lì. Ci sono cose delle quali non si dovrebbe ridere, non si potrebbe ridere, eppure fanno ridere, soprattutto se sono raccontati in un certo modo e soprattutto se ti danno la possibilità di guardare le cose, il mondo, anche la vita da una prospettiva diversa. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it, Federico sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui, scrive: quando mi capitava di non capire niente, e per niente intendo niente, durante le lezioni di elettronica alle superiori, ridevo come un pazzo. E poi Carlitos: io e lei, cenetta al ristorante. Ordiniamo e mentre aspettiamo cominciamo entrambi a sgranocchiare il pane e i grissini del cestino. A un certo punto qualcosa di piccolo e duro rimbalza nel suo piatto vuoto. Io penso sia un orecchino, e invece no, mi rendo conto dalla fretta con cui lei la raccoglie che è una capsula provvisoria che le si è staccata da un dente. Adesso saprei come comportarmi, ma allora ero giovanissimo e ho riso così tanto e così a lungo da offenderla a morte. 349-238-6666. Tania, la prima volta al funerale di mio nonno. Questo è proprio un esempio lampante. Cioè, non c'è niente da ridere a un funerale. Eppure c'è qualcosa di dirompente nel fatto che è proibito ridere, banalmente. La prima volta al funerale di mio nonno. Gli volevo bene, lo amavo tantissimo. Ero triste per lui e per altri motivi. Poi un grande amico, un grande papà e la presenza di persone che veramente non c'entravano niente con noi e col funerale ha cominciato a farmi ridere e non ho più smesso. Vabbè, il motivo qui non si capisce, persone che non c'entravano la facevano ridere, ma tant'è. Tenete a mente questa domanda mentre ascoltate il racconto, sospendete il giudizio e sappiate che nessuno ha nulla contro gli animali, in particolar modo Pierpaolo, che è l'autore di questo racconto. Ripeto, sospendete il giudizio e ascoltate la storia. La Salaria è una strada importante. Lo è perché è piena di storia. Era la principale arteria dei Romani per il trasporto del sale, da cui il suo nome. Ma lo è anche perché collega la costa adriatica a quella tirrenica, la provincia alla capitale. Ma il grande miracolo che ha compiuto questa strada è stato di trasformare le stazioni di servizio in barettini, che sono dei gangli di aggregazione sociale. Ecco, in uno di questi posti, Alessia decise di offrire un aperitivo per il suo compleanno. Non che io la conoscessi così bene da meritarmi un invito, ma aveva fama di avere delle amiche fighe e decisi di andare e portare anche qualche amico. Loro, questa Alessia, manco la conoscevano. Il piano era chiaro. Si andava, si salutava, si studiavano le amiche. Se erano buone, si rimaneva. Se erano brutte, si scroccavano due bevute. Tanti auguri a te, brindisi e via al concerto di Federico Fiumani. si poteva fare. E così facemmo. C'erano Alessandro e Gianni e Dario, che saranno tre amici, diciamo, molto importanti, che c'erano nella mia vita. Ed era, come dire, una serata estiva, come sono tanti, nel senso che c'era questo concerto e stavamo decidendo il da farsi, se non andare, se andare o non andare. Ma abbiamo pensato che questo aperitivo potesse, come dire, darci un'idea su cosa fare della serata. Io, Alessandro, Dario e Gianni entrammo al barettino Dolce e Salato in perfetto orario e senza regalo. Erano tutti seduti, una decina più o meno, 7 donne e 3 uomini. Buon rapporto, che proprio male che ti diceva, ce n'erano 4 libere. Ma la decisione doveva essere collettiva e andammo fuori a fumare una sigaretta per una rapida analisi costi-benefici. Non era al massimo fumare vicino a una pompa di benzina e quindi ci spostammo vicino al ciglio della strada, convenendo sul fatto che era meglio morire sotto un'auto piuttosto che bruciati vivi. Così, mentre Dario cercava di convincerci che Fiumani, se anche era stato un simbolo dell'underground musicale italiano, lo era stato a metà degli anni 90 e ne era passato di tempo, ecco, mentre questo accadeva, vedemmo avvicinarsi da lontano 4 figure. Una signora anziana, una signora zoppa e 2 cani. Uno grande e uno piccolo. All'inizio erano solo sagome, ma più si avvicinavano e più quello strano paesaggio umano catturava la nostra attenzione. Finita la sigaretta, facemmo per rientrare e ci dirigemmo verso l'entrata di Dolce e Salato, quando sentimmo nell'ordine una lunga frenata di un'auto, un urlo di una donna, un rumore sordo e vuoto e il guaito di un cane. Era successo. Mi girai e vidi una scena da lasciare senza fiato. Il cane ormai morto a terra e la vecchia con il fazzoletto legato in testa che urlava disperata. Il tempo sembrò fermarsi e nessuno sapeva bene che cosa si dovesse fare in quel momento, tantomeno io, che era la prima volta che vedevo un cane morto. L'unica cosa che mi venne in mente fu quella di andare verso la signora anziana per calmarla e magari farla accomodare al bar per offrirgli un bicchiere d'acqua, tanto stava urlando. Così, mentre mi avvicinai, mi cadde lo sguardo sul cane piccolo e nero, che preso dalla disperazione faceva la spola tra la signora zoppa, seduta affranta sul ciglio della strada, e il suo defunto amico a 4 zampe in mezzo alla carreggiata. Ecco, i 3 secondi che seguirono quel momento mi fecero capire il senso di 2 proverbi. Al male non c'è mai peggio, e piove sempre sul bagnato. Il cane piccolo, nero e terribilmente agitato, nell'andirivieni, cane morto, zoppa sul ciglio della strada, non aveva notato la pacchianissima croma che arrivava a tutta velocità e che gli passò sopra. Tra le urla di tutti i presenti, che ormai erano numerosi. Così la vecchia e la signora claudicante facevano a gara a chi piangesse di più e a chi guardasse di più il cielo. Avvicinammo le donne alla pompa di benzina e le mettemmo in sicurezza, ma non c'era medicina per il loro dolore e non vollero nulla, se non tornare a casa lasciando i presenti e i loro cani, che un minuto prima erano vivi. Avevamo già notato questa strana figura, avevamo già notato prima ancora che succedesse il fattaccio. E quindi un po' l'avevamo seguita con i bicchieri di vino in mano, dicevamo guarda un po' che strana immagine, che strana cosa. Però nessuno poteva, come dire, immaginare quello che sarebbe successo di nuovo. Ecco, tuttora a me viene da chiedermi se si può ridere nel vedere 2 cani morire senza sentirsi un mostro. O se semplicemente è il senso della vita. In un attimo puoi perdere te stesso, il tuo migliore amico e il tuo animale preferito. A seconda di quale attore sei nella vita e a seconda di quale angolo di visuale la banalità del caso ti assegna, in un momento particolare puoi essere un cane morto, una vecchia donna che piange, un coglione che se la ride o un tamarro di periferia. Tutto qui. Non mi ha dato nessuna lezione. 2 cani che muoiono in mezzo a una strada non danno alcuna lezione. Però un po' mi hanno fatto ridere e mi hanno fatto fare qualche domanda. Alla fine andammo al concerto di Fiumani. Se uno raccontasse questa storia senza leggere il racconto di Pierpaolo, probabilmente verrebbe da dire: beh, e che c'è da ridere? Perché è vero, non c'è niente da ridere nella storia di 2 cani investiti sul ciglio di una strada. Proprio niente. Eppure la storia di Pierpaolo, raccontata nel modo in cui l'ha raccontata Pierpaolo, ha qualcosa di esilarante. Ora, si potrebbero aprire tavoli e tavoli di discussione a proposito dell'opportunità di ridere in determinate situazioni, oppure quante determinate situazioni, proprio per il divieto di ridere che portano con sé, siano un invito assoluto alla risata. Credo che sia l'aspetto grottesco di questo avvenimento a renderlo quasi surreale. della storia di Pierpaolo, intendo. I protagonisti sono dei personaggi molto caratterizzati e molto particolari. La cornice della Salaria, con le stazioni di servizio che diventano degli happy hour da carreggiata. Perfino il concerto di Federico Fiumani sembra un elemento paradossale, inserito in questo quadretto surreale. Ammetto che anche a me è venuto da ridere leggendo questa storia, e l'ho fatto in quel modo in cui si ride delle cose di cui non si dovrebbe ridere. Un modo trattenuto però esplosivo, una specie di risata da senso di colpa. Una volta mi è successa una cosa simile, per un avvenimento meno traumatico, però non meno imbarazzante. Era che stavo uscendo dall'università e sui gradini, di fronte a me, una ragazza che ricordo ancora benissimo, rossa di capelli, con una borsa firmata e un tailleur blu, inciampò in un gradino e rovinò sulle scale fino ad arrivare con la faccia sul marciapiede. Non si fece del male se non qualche graffio e qualche ammaccatura, ma vi assicuro che il modo scomposto in cui il suo corpo si muoveva roteando braccia e gambe nell'aria, nell'atto di cadere, è una delle cose più esilaranti che io mi ricordi. Così come mi ricordo bene le facce schifate dei soccorritori nel sentirmi ridere disperatamente di fronte alla povera ragazza franata a terra. Sono consapevole che sia poco carino e so che per questo io pagherò tutto e lo pagherò probabilmente cadendo come un imbecille dalle scale di un posto molto affollato, un posto magari in cui io voglio fare bella figura e invece finisco a gamba all'aria. Però leggendo il racconto di Pierpaolo e ricordando quel giorno là fuori dall'università, a me viene in mente una domanda che vi ho già posto e che vi ripongo e che in realtà mi pongo spesso, e la domanda è: si può veramente ridere di tutti? Per me la risposta è sì. Io credo che si debba poter ridere di tutto, perché ridere non vuol dire insultare e non vuol dire neanche mancare di rispetto. Si può addirittura celebrare qualcuno ridendo, e anche se quel qualcuno non era un comico e quindi con le risate non ci campava. Io penso che ridere esorcizzi e permetta di comprendere. Credo che ridere sia un toccasana, e non perché ridere sia meglio che piangere, ma perché permette a tutti di scegliere la via migliore per affrontare la vita, quella che non ti fa fare troppe domande e non ti fa dare troppo peso alle cose negative, ma nemmeno a quelle positive. Ridere ti permette di non prenderti troppo sul serio e quindi di non prendere troppo sul serio anche la morte. Io ringrazio tantissimo Serena per questo messaggio che ha mandato, perché è esattamente quello di cui cerchiamo di parlare oggi. Ridere, si chiede: ho riso tanto quando ho saputo di avere il cancro al seno, inizialmente per la paura e il nervoso, poi per la felicità perché l'avevo scoperto in tempo. Anche dopo l'operazione, tra i dolori atroci, ho riso. C'è sempre stato qualcosa per cui ridere. Oggi so che il saper ridere di qualcosa, qualsiasi cosa ti accada, è un talento. Serena. PS: non chiamatemi perché sono un convalescente, ma vi ascolto con piacere. Grazie Serena. E adesso però, oltre a quelli che erano prevedibili, mi scrivono che non si ride di queste cose, e lo capisco e l'abbiamo spiegato, io vorrei sentire Pierpaolo, perché è da lui che è nato ed è per lui che siamo invischiati qua dentro. Pronto Pierpaolo? Ciao Matteo. Come stai? Bene, abbastanza bene, dai. Senti, mi dicono che sei il primo marchigiano, non della storia, ma della storia di questo programma. Dobbiamo ancora verificare, no. Ma pare proprio così. Sì, è vero. Fammi capire, ci sono problemi di frequenze nelle Marche per la D24? Perché? No, guarda, io ascolto molto volentieri, ascolto quasi sempre. Questo mi fa molto piacere perché sono, come dire, molto legato alla mia terra, alle Marche, una regione bellissima, stupenda. Senti, non so perché gli altri non sono mai mandati prima, sinceramente. Senti, dimmi, tu hai detto che sei di... Castel di Lama. Castel di Lama, però lavori a? Lavoro a Grottamare, mi occupo di comunicazioni. Ma Grottamare dove si trova? Perdonami l'ignoranza geografica. Si trova lungo la costa, vicino a San Benedetto del Tronto. Ok, sotto San Benedetto. Proprio a sud delle Marche. Ok, appena sotto San Benedetto, giusto? No, appena venendo a nord proprio. Non ne ho azzeccata una, ragazzi. Non ne ho azzeccata una. Se ne dicevo un'altra, sbagliavo pure quella. Quanto tempo succedeva questo episodio? Quanto tempo fa succedeva questo episodio? È successo 3 anni fa. Quindi a quanti anni hai adesso? Tu 34 avevi? 34, sì, ho 34. Come dire, quindi avevi una trentina d'anni, tu e i tuoi amici idem, quindi eravate persone anche, diciamo, esatto. Giudiziose. Si può dire che eravate persone giudiziose? Ok. Eppure c'è stato qualcosa che vi ha fatto ridere, per quanto concepiste che quella era una cosa drammatica, giusto? Guarda, ho sentito anche la prima parte del programma e, come dire, proprio il divieto di ridere in certe situazioni forse è stato proprio quello, una reazione naturale, stupida, stupidissima, mi rendo conto, però è la verità, è quello che è successo. Senti, in più c'era una situazione particolare dove praticamente c'erano molte persone in mezzo alla strada, e quella era una strada dove passavano le macchine ad alta velocità, quindi in un primo momento sinceramente ero preoccupato che succedesse anche qualcosa di più grave. Immagino. Senti, invece dimmi, rispondimi tu alla domanda del giorno: si può ridere di tutto? Sì, si può ridere di tutto. Senti, mi è piaciuta, lapidaria, secca, grazie, arrivederci. Invece della serata, della serata dopo, parlami di Federico Fiumani, perché per l'occasione, forse l'avrai sentito, Tiziano Bonini ha scelto un brano di Federico Fiumani, ovviamente. E prima, nella mia totale ignoranza musicale, gli ho chiesto: ma chi era esattamente Federico Fiumani? Me lo spieghi tu, visto che ci andavi pure ai concerti? Allora, Federico Fiumani era un po' il leader di Diaframma. Che è un gruppo, dei Diaframma, cioè, aveva ragione Dario, tra gli anni 90 erano dei migliori gruppi dell'underground, della scena musicale italiana. E ma è uno, perdonami, è ancora in attività? Ma è ancora in attività lui? Suona ancora? Sì, sì, suona ancora. E fa questo mestiere nella vita? Questo non saprei dirtelo, sinceramente. Però anche il suo seguito, insomma. Tra cui voi, per esempio. Riscuote successo da queste parti. Senti, invece dimmi che cosa fai, ti occupi di comunicazione e cosa significa? Per il comune di Grottamare? Sì, lavoro al comune di Grottamare, ufficio relazioni con il pubblico, mi occupo anche della comunicazione istituzionale. Del comune? Sì, insomma. Dimmi qual è la campagna a cui stai lavorando in questo momento. Guarda, io mi occupo soprattutto su discorsi relativi alla partecipazione politica, ossia come coinvolgere la cittadinanza nelle scelte più importanti di un comune, di un ente locale. Fammi delle migliori esperienze in Italia in questo settore. Ah sì? Cioè, ma fammi un esempio però, scusami. Guarda, tecnicamente si chiama di democrazia partecipativa. Wow, vogliamo alto a Grottamare. Come? Vogliamo altissimo a Grottamare. Ah sì, una bella realtà davvero. Sia cioè, come ambiente, ma quindi scusa, poi ti devo salutare. Mi fai un esempio concreto di cosa significa questa forma di democrazia partecipativa rispetto alla comunicazione? Difficilissimo in poche parole, ma ci provo. Allora, attraverso percorsi di assemblea con i cittadini si decidono le scelte più importanti della città, come realizzare una piazza, come fare un bilancio e altri interventi importanti. E queste cose avvengono in luoghi dove ci possono stare tutti i cittadini che vogliono venirci? Sì, sì, certo, dalle assemblee di quartiere a circoli anziani chiusi per turno, ristoranti chiusi per turno. Ovviamente non faccio solo questo, ma mi occupo anche di cooperazione internazionale, insomma l'area è un po' molto vaga. Perché sembravi uno molto cinico dal tuo racconto, invece sembrerebbe di no da quello che fa. Ma come è nato, nel senso, io una volta che ho visto questo un po' mi sono spaventato un po' di me stesso e l'ho messo su un foglio Word, giusto per metterlo da qualche parte, non pensando che avesse avuto risonanza. Poi ho conosciuto la vostra tradizione, mi piaceva e hai fatto bene. Senti, per Paolo, immagino che tu non ce la faccia a venire martedì 19 giugno al live a Milano. Martedì 19 giugno. Non lo sapevi neanche. Adesso, ci penso un attimo. Ok, pensaci e fammi sapere. Ti ringrazio per il racconto. Buona giornata. Grazie anche ciao a te, per ciao, Paolo, grazie. Gisella mi scrive: ciao Matteo, potresti dirmi più o meno quanti posti sono ancora liberi per il live del 19 giugno? Più o meno una cinquantina, credo. Giusto? Più o meno. Tra i 70 forse. Vabbè, prenotatevi. Ha una faccia simpatica Pierpaolo nella foto che ci ha mandato. È sul belvedere di qualche edificio di qualche città del nord Europa o del nord-est dell'Europa. Non saprei dire, potrebbe essere Stoccolma, ma potrebbe essere anche una città tipo Varsavia, Praga forse. Addosso una specie di caftano, che non so cosa sia, però mi piace la parola. Un giubbotto lungo con del pelo, una cuffia in testa, e ha la faccia schiacciata, ha gli occhi schiacciati di chi sta guardando in un punto dove c'è molta luce. Un parca, mi dice qualcuno, non è esattamente un parca. Che Margherita dice non parca. Tant'è. 349-238-6666. Non capisco dove sei, Pierpaolo. Se stai ascoltando, mandami un messaggio. 349-238-6666. Si dividono quelli che dicono che si può ridere di tutto, quelli che invece no. Dov'è? Allora possiamo ridere di tutto, anche dei terremoti, della bomba di Brindisi. E invece no, perché il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi, scrive Luigi. Aldo scrive: ride bene chi ride ultimo. E fino a qui, Aldo, non ci piove. Una cosa è ridere degli altri, altra cosa è ridere con gli altri. No, non si può ridere di tutto. E poi, per gli splendidi messaggi fuori contesto, a Grottamare aprono domani un'originale agribirreria. 6 birre per 6 menù. Ti ringrazio. Ora mi sento meglio. E poi Massimo, che io credo sia il Massimo Neriotti che conosciamo, il veterinario, quello di Scagnolari, che è peraltro il racconto più votato da riascoltare al live. Quando facevo il veterinario per cavalli, un giorno ho visitato un cavallo bolso che tossiva tantissimo. A ogni colpo di tosse il poveretto mollava una scorreggia. I proprietari erano molto preoccupati per la sua salute. Mentre lo stavo visitando, il cavallo è stato preso da un accesso di tosse e scorregge. Io sono stato preso invece da un accesso di risate irrefrenabili. Ridevo singhiozzando e non riuscivo a smettere. Mi sono scusato, ma ho perso il cliente e pure il paziente. Terribile. Ciao Massimo. E poi un altro Massimo invece da Roma. Spiaggia del Circeo, grande e deserta. Mia figlia di 2 anni davanti a me, lontana. Io calcio forte la palla per lanciargliela e la prendo dritta in faccia. È a terra che piange, mia moglie che urla, io per terra invece con le lacrime agli occhi, perché per il ridere a farla apposta non ci sarei mai riuscito. Massimo, Roma. Ecco Massimo, adesso tu, per evitare insulti dagli ascoltatori, dovresti scrivere che tua figlia sta bene, è tutta a posto ed è cresciuta sana. Ma per evitarlo invece io vi faccio sentire un'altra cosa. A proposito di si può ridere di tutto, tutto può far ridere oppure no, vi faccio sentire un pezzo, purtroppo l'ho tradotto e c'è la mia voce che lo traduce perché in italiano non è presente, del comico che va per la maggiore, di cui vi ho già parlato più volte negli Stati Uniti, si chiama Louis C.K. Ha fatto di recente uno spettacolo e non l'ha mandato in televisione, non l'ha venduto alla televisione, l'ha ripreso e l'ha messo online, per $5 te lo scarichi, si chiama Live at Beacon Theater, se vi interessa, è nato in onda a ottobre dell'anno scorso. E a proposito del si può ridere di tutto, questo è il modo in cui inizia il suo spettacolo. But I'm really glad you're here. This is a Sono felice che siete qui stasera. C'è un sacco di gente qui. Questo è un posto grande, ci sono circa 2500 persone stasera. That's a lot of people. That's enough people to be like a sample. Sono tante persone, sono abbastanza persone per rappresentare un campione della popolazione. There's enough people here to say that within 2 months at least one of you will die. 2500 persone sono sufficienti per dire che entro 2 mesi uno di voi morirà. Lo sto solo dicendo, Credo che sia giusto dirlo che in ogni gruppo casuale di 2500 persone non tutti riusciranno ad arrivare a Natale, sfortunatamente. E uno di voi stasera sta per rovinare il Natale della propria famiglia morendo una morte orribile. E non so perché sia così, mi spiace. Alcune persone vogliono che tu faccia delle cose per loro quando muoiono, tipo voglio che prendi le mie cenere e le spargi. Vai a cagare, non faccio niente di sta roba. Sei morto, non ho intenzione di fare delle commissioni per te dopo la tua morte. Non conti più niente. Alcune persone cercano di fare delle cose nobili col proprio corpo, cercano di fare in modo che il loro corpo abbia qualche utilità dopo la morte. E penso sia giusto. Noi stiamo solo prendendo in prestito il corpo, stiamo prendendo in prestito ogni cosa. Se il tuo corpo non ti serve, quando è finito lo dovresti passare a qualcun altro. Questo è qualcosa in cui credo. Voglio dire, non ho nessuna intenzione di farlo, è mio. Sapete, io ho molte credenze, ma vivo senza seguire nessuno. I'm kind of tired, 'cause you were back. Ho 44 anni e 3 anni fa ebbi un infarto. Quando arrivai all'ospedale, chiesi in uno stato di semi-incoscienza una benda per il mio occhio. E alla domanda del chirurgo sul perché facessi questa richiesta, risposi: occhio non vede, cuore non duole. Lui scoppiò a ridere come un matto. Oggi sono qui, felice, e ve lo posso raccontare. Simone da Milano. Qualcuno mi scrive invece: basta dire tant'è. Ho detto tante volte tant'è. Ecco, diciamo che però l'unica persona da cui mi faccio dire basta per dei modi di dire è mia madre. Visto che mia madre è qui e ancora non mi ha detto niente, oggi direi che è tant'è, no? Che ne dite? Tant'è. Messaggio fuori con te. Adesso mi viene da farla a po'. Devi scusarmi, guarda. Quello, a tu che mi hai scritto basta dire tant'è. Che non, se fai così è veramente la fine. Tant'è. Messaggio fuori contesto. Ho trovato la ricetta degli spaghetti spiegata nella puntata di ieri. Si chiamano spaghetti risottati, scrive Gianluca 72. Mi piacciono quelli che si firmano con il numero dell'anno di nascita alla fine. Come, sì, ma ha la sua importanza. Tant'è. Scusate. Scusa mamma, lo chiedere, vedi? Già se la sta prendendo, mia mamma. Già sta dando ragione a quello che mi ha mandato il messaggio. 349-238-6666. La puntata di domani è una puntata tutta dedicata a Bruce Springsteen, perché è arrivato un racconto del primo concerto che l'autore del racconto vide nell'81. E questa sera vado quasi apposta per parlarne poi nella puntata di domani. Vi voglio però lasciare con un estratto di un altro racconto che è tra i più votati per essere riascoltato al live del 19 di giugno. Questo è andato in onda il 16 settembre, l'aveva scritto Emanuele e si intitola Le Quattro Valli. I miei compagni di gita li vedo sempre più stanchi e scoraggiati, mentre io ho la riserva di caramelle di zucchero che non offrirò mai a quegli adulti che non mi volevano. Ne mangio una ogni mezz'ora e ad ogni caramella mi sento sempre più forte di prima. Non ho paura finché sono di fianco a mio papà. Alla fine, intorno alle 19, troviamo un sentiero ben battuto e segnato da tacche di vernice bianca e rossa. Da qualche parte dovrà pur portare. E in effetti, dopo poco, si inizia a scendere decisamente verso valle. A breve usciamo anche dalla nebbia, quella che ci ha avvolti per molte ore, e con le ultime luci del giorno intravediamo le prime case. Le ultime parole si sprecano per cercare di indovinare in quale paese siamo finiti, e nessuno della compagnia lo indovina, fino a che non si intravede la ferrovia. Una visione non prevista. Ma la soluzione del giallo è semplice. Avevamo attraversato 5 valli. Una di troppo. Questo racconto parlava di questa passeggiata, di questa camminata in montagna fatta dal padre dell'autore, che era un ragazzino all'epoca, che era un bambino, insieme ad alcuni amici, insieme al nonno, mi pare. Il nonno doveva festeggiare la pensione. Mi pare fosse così. Facevano questa passeggiata e alla fine sbagliavano strada e ne facevano una valle di più, ne avevano fatte 5. Se volete votare qual è il racconto che volete riascoltare al live del 19 di giugno, tra l'altro mi ha divertito moltissimo Pierpaolo, come ha fatto finta, non ne sapeva niente del live. 19 di giugno, ma guarda, forse ho il dentista, una scusa, non ho riuscito a trovarla in tempo. Per votare il racconto, vi dicevo, andate sul sito di Radio 24, si apre un pop-up, una finestra, e lì potete votare. E allo stesso modo lì vi potete prenotare per il 19. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata: Pierpaolo, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina. La storia di oggi era quella appunto di Pierpaolo e parlava di ridere in qualche modo, anche se in maniera a volte sbagliata. Quella di domani invece è di Davide e parla dei concerti che ti cambiano la vita. Aprile 1981. Ieri ho passato un esame barriera della mia facoltà, di quelli che fanno selezione. Ma non è per questo che sono eccitato oggi. In realtà oggi è anche il mio 22esimo compleanno, ma nemmeno questo è il motivo della mia agitazione. Sono su di giri perché sto per assistere per la prima volta al concerto di Bruce Springsteen.